questo venerdì 21 giugno. I titoli, c'è chi sceglie la questione finanziaria con le borse che cadono, questo è il titolo del Sole 24 Ore, cadono le borse, volano i tassi, il Corriere, borse giù, come tutelare i risparmi, Repubblica, effetto Fed, cadono le borse, il Messaggero, borse giù, risale lo spread, la Stampa invece sulla politica, Letta, il governo non rischia. Il Fatto Quotidiano, non ha rispettato il patto, così il PDL contro Napolitano. Libero la vicenda Josefa Idem, che vedremo tra poco. Medaglia d'oro, faccia di bronzo, i misteri dell'IMU. Per il giornale, Berlusconi può farcela, ecco tutte le ipotesi. L'Unità, Grillo contro i terremotati, l'ostruzionismo alla Camera mette a rischio il decreto. Mentre il Manifesto abbassa la cresta e c'è la foto di Grillo. Fame scandalosa è invece il titolo appello dell'Avvenire, con il monito nel messaggio del Papa alla FAO. Ma eccolo qui, Josefa Idem. Erano giorni che si parlava di questa vicenda dell'IMU, la casa, la doppia prima casa per i due coniugi del ministro Josefa Idem e di suo marito. Le polemiche, le richieste di dimissioni, le richieste di chiarimento. Cosa si fa in questi casi, cari italiani? Si fa una cosa. Quando c'è questa grande pressione mediatica dal punto di vista della comunicazione, si sceglie un giornale, in questo caso Repubblica, e si fa un'intervista per sperare di chiarire tutto. Devo dire però che nell'intervista rilasciata a Concita De Gregorio, Repubblica, prima pagina all'inizio e poi tutta un'intera pagina 9, Josefa Idem cosa fa se non allungare la lista, e quindi prendete nota, cari italiani, arriva l'IMU non pagata a mia insaputa. Questo è il titolo, non sapevo dell'ICI non pagata, ho pensato di lasciare ma resterò. E nessuno dubiti della mia onestà. Allora, Concita De Gregorio, intervista al ministro Josefa Idem. Tutti che dicono, vede, sono tutti uguali, inizia così l'intervista, ma sono consapevole che la tentazione di sporcare è più grande davanti a un lenzuolo pulito. Per questo ho deciso di non dimettermi. Vorrei invece spiegare cosa è successo. E qui c'è già la prima frase. E prima di tutto, capirlo io. Capite? Deve capire intanto lei che cosa sia successo. È tutta insaputa. Intanto la casa non è una palestra. Io ho sempre avuto una palestra in casa. Poi quando abbiamo allargato la necessità di allargare la nostra casa, ne abbiamo costruita un'altra e abbiamo mantenuto le due case. La casa palestra dove stavo io e quella dove sta mio marito. Ecco perché due prime case, esenzione per 3 anni dell'ICI. Se sono state commesse irregolarità pagherò con gli interessi, ma vorrei dire che non mi sono mai occupata personalmente di gestire queste cose. Nella mia vita ho passato 3 settimane al mese in canoa, 12 mesi all'anno, è tanto tempo, è quasi tutto il tempo, sempre delegato ai tecnici, chiedendo loro naturalmente di fare le cose a regola d'arte, il commercialista, l'ingegnere, il geometra. Non saprei nemmeno dire esattamente di che cifre parliamo, solo oggi ho saputo che si tratta di un importo di 600 euro l'anno. Inoltre, che nella palestra della mia casa ci fosse un'associazione amatoriale che nei periodi in cui io non c'ero aveva in affido la gestione delle attrezzature per non tenerle inutilizzate, in paese lo sapevano tutti dal 2007. La denuncia di irregolarità è emersa in consiglio comunale solo dopo che sono diventata ministro. Io capisco, è una battaglia, si usa ogni mezzo, ma se mi fossi resa conto prima che qualcosa non andava sarei intervenuta. Ancora il commercialista, ho chiesto 2 mesi fa, è tutto a posto, e lui mi ha detto è tutto a posto. Al che Concita De Gregorio dice: scusi, se lei fosse stata in Germania si sarebbe già dimessa. Ci ho pensato molto, però vede, a fare il ministro non ho fatto una scelta né di comodo né di convenienza. E qui parte un secondo grande classico, sentite cari italiani. Ho accettato di mettermi al servizio della comunità, ci ho rimesso sul piano della vita privata, affettiva, sul piano economico. Vedo i miei figli un giorno a settimana, vivo lontana da mio marito, mi sono dimessa dall'agenzia di consulenza sportiva che avevo costituito, non posso più accettare sponsor, guadagno meno di prima e vivo peggio, ma faccio un lavoro bellissimo, penso che ne valga la pena combattere contro la marginalità e la precarietà dello sport, dare dignità agli atleti, spiegare che lo sport giovanile è cultura, questo è quello che sono venuta a fare. Se poi il gioco al massacro abituale Prevede che questo sia il mio turno di essere fatta a pezzi. Io dico, la poltrona non mi interessa il progetto per cui sono stata chiamata. E poi dice, guardi, il presidente del CONI mi chiese anche di proporre un incarico di consulenza a mio marito. E io gli ho detto, no, caro marito, non accettare, sono cose che non dico, di cui non mi piace parlare, ma non posso accettare che si metta in dubbio la mia onestà. Insomma, Josefa idem, ecco perché avremo due prime case, avevo due prime case, parla Repubblica e si inserisce nella lunga lista degli insaputismi. Non sapevo dell'ICI non pagata. C'è da dire che questa teoria difensiva non è che abbia portato sempre benissimo, benissimo, ecco, politicamente parlando. Quella dell'insaputa è una cosa che poi finisce sempre politicamente un po' in difficoltà. Comunque, cinque pagine di Libero, le prime, dedicate a questo. Il titolo di prima pagina, come detto, è medaglia d'oro e faccia di bronzo. Ci sono anche delle foto e l'accusa, pagina 2, abbiamo sentito prima anche il vice direttore Massimo De Manzoni, di clienti che sono nella palestra casa del ministro idem. Ma saranno clienti di quell'associazione amatoriale che quando lei era in canoa in giro per il mondo utilizzava gli attrezzi, però Libero si chiede cosa facevano, quindi questi clienti pagavano anche in questa casa palestra. Poi il Fatto Quotidiano fa un'accusa di altro tipo: la idem sempre assente, era assessore solo per il suo nome. David Marceddu va a Ravenna, dove insomma raccoglie anche delle dichiarazioni non sempre positive nei confronti dell'impegno politico come assessore al comune di Josefa idem. Comunque, il caso idem, mi fido delle sue parole, questa è stata la parola di Enrico Letta. Sta di fatto che Libero continua, i conti non tornano, la ministra Josefa idem si deve dimettere. Come finirà questa vicenda? Non credo che questa intervista a Repubblica, che peraltro alimenta i lunghi casi di insaputismo, possa chiudere il caso. Invece non ha avuto bisogno di dimettersi. Prima della pubblicità vi regalo questa chicca simpatica di Caterina Marini, consigliere di circoscrizione del comune di Prato del Partito Democratico. Non ha avuto bisogno di dimettersi, è stata espulsa immediatamente dal partito, pare, perché così ha commentato su Facebook. Mannaggia sto Facebook, ma state attenti prima di scrivere su Facebook. Vabbè, ha commentato su Facebook dopo il tentato furto a casa della sorella. Così, che città di merda è questa, Prato, eh? Extracomunitari, ladri e stronzi, dovete morire tutti e subito. Uno sfogo che scrive il Corriere, via dal PD, la consigliera anti-immigrati, frase shock su Facebook, extracomunitari morite. Pagina 23 del Corriere della Sera, ma anche Libero ci dedica una pagina, la renziana anti-Chienghe, immigrati morite, è una del PD renziana, ma è stata cacciata. Ma prima di parlare su Facebook o di scrivere, pensare 5.000 volte, in genere bisognerebbe farlo. Comunque, la pubblicità, il meteo, poi torniamo con la tenuta politica del governo. Letta si dice ottimista, ma tutto incombe sulla questione giustizia e Berlusconi. E poi, cari italiani, provate e pronti a tenere le mani sul volante, perché perché arriva una nuova tassa. Sì, magari state per fare il pieno della benzina, proprio lì sulla benzina. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Allora, il premier Enrico Letta, quando sono le 7:37 minuti, ieri ha incontrato la stampa estera, ha detto il governo è stabile, non ci saranno scossoni, ha proclamato ottimismo, ha parlato a 50 giorni dopo il suo insediamento. In realtà su tutti i giornali l'analisi politica è l'analisi del dopo respingimento del ricorso in Corte Costituzionale dei legali di Silvio Berlusconi, dunque il via libera alla condanna definitiva a 4 anni di fatto in appello, e ora si apre la Cassazione con la possibile interdizione dai pubblici uffici. Cresce la rabbia nel PDL, pagina 6 del Corriere, Biancofiore ricorsa alla Corte dei diritti europei, è tutto un proliferare di articoli a capire se prevarranno nel PDL i falchi alla Brunetta Santanchè, così sono identificati, o le colombe. Il governo tiene, dice Letta, in realtà nell'analisi di Ugo Magri sulla Stampa, pagina 3, Berlusconi è pronto a far saltare la stagione delle larghe intese, il leader PDL non considera più utile l'alleanza con il PD, il partito deciso a forzare la mano alla prima occasione utile. Insomma, anche per il Corriere, a pagina 8, Paola Di Caro, Berlusconi si sente assediato, non rompo l'alleanza, ma la sensazione è quella di una tensione perenne che prima o poi potrebbe davvero scoppiare. Secondo il Fatto Quotidiano, in un retroscena pagina 2, a firma Beatrice Borromeo, i Berlusconi s'avvertono il colle, mantieni i patti, questa sarebbe la rabbia di Berlusconi nei confronti di Napolitano, perché, scrive la Borromeo, addirittura sarebbe furioso Berlusconi perché Napolitano non avrebbe rispettato gli accordi. Che uno dice, ma quali accordi? Beh, ci sarebbero stati dei veri e propri accordi sulla sentenza della Corte Costituzionale. Questo invece, questo ovviamente è, questo è ciò che ha adombrato come sospetto sul Fatto Quotidiano, e cioè chi ha visto Berlusconi lo ha sentito dire che Napolitano è un comunista che non rispetta i patti, perché non abbiamo chiesto a uno come Napolitano un decreto salva Berlusconi, ma certo c'era uno schema condiviso che è stato sviluppato nel tempo, e per il Cavaliere questo schema è stato tradito da Napolitano. Si torna sempre a parlare dei giudici nominati da chi all'interno della Corte Costituzionale. Già ieri il Corriere diceva 5 sono nominati da Napolitano, dal Presidente della Repubblica, avessero rispettato il voto come quelli di area cosiddetta PDL, a quel punto, o meglio centrodestra, a quel punto il voto sarebbe stato a favore di Berlusconi. Insomma, le accuse che volano e creano tensione all'interno del governo. Secondo un retroscena altro di Repubblica, invece, c'è un vero e proprio tentativo di fare da parte di Berlusconi a questo punto, o dei berlusconiani, una nuova legge ad personam. Francesco Bei e Eliana Milella in prima pagina, ecco l'emendamento fantasma del Cavaliere. Secondo Repubblica, qualche manina sarebbe già all'opera coi metodi di sempre, quelle delle leggine ad persona, ma sto leggendo a pagina 7. Ci sarebbe infatti un emendamento fantasma, un codicillo ancora non partecipato in alcun testo formale, ma che potrebbe arrivare nel primo decreto utile, come quello sulle carceri della Cancelliere o quello sulla sicurezza di Alfano. Questa norma dovrebbe intervenire sugli articoli 28 e 29 del Codice Penale, quelli che disciplinano l'interdizione dei pubblici uffici, la pena accessoria proprio alla quale è stato condannato Berlusconi il processo Mediaset. Si tratterebbe semplicemente di agire aumentando gli anni di pena che rendono obbligatoria l'interdizione, oppure escludendo alcuni reati per l'applicazione della pena accessoria. Insomma, se anche il Cavaliere perdesse in Cassazione con questo emendamento fantasma, scrive Repubblica, per ora c'ho qualcuno giura di averlo anche visto, passasse questo emendamento, il Cavaliere anche con una condanna in Cassazione potrebbe rimanere in Parlamento. Vabbè, fanta politica o no, il tema è che il governo del fare, il governo del dire, il governo del decreto del fare, cosa sta facendo? L'ottimismo di Enrico Letta. Oggi però è interessante l'articolo editoriale di Luca Ricolfi in prima pagina della Stampa, invincibili nell'arte di non scegliere, occasioni mancate, scrive il sociologo Ricolfi. Come stanno le cose? Cioè, sta facendo o non sta facendo il governo? Sentite Ricolfi. A me pare che a 2 mesi dall'insediamento il governo Letta abbia già mostrato il suo volto. Nato dall'assenza di alternative, aveva di fronte 2 strade. La prima, governare cercando il massimo comune divisore tra le idee di destra e sinistra, ovvero varare il maggior numero di provvedimenti capaci di mettere d'accordo destra e sinistra. E a proposito, il massimo comune divisore tra 8 e 6 è 2. Seconda strada, governare cercando il minimo comune multiplo tra le idee di destra e sinistra, ovvero tentare di mettere in atto le idee più incisive, e il minimo comune multiplo tra 8 e 6 è 24. Tra le 2 strade, scrive Ricolfi, il nuovo governo ha scelto molto nettamente la prima, che poi è la cifra fondamentale di tutti i governi della Seconda Repubblica, ivi compreso Monti. Governo del fare, indubbiamente, ma inteso come fare pochino, rimandando al futuro tutte le scelte cruciali, quelle difficili che possono creare conflitti. Prima del voto tutte le maggioranze, le maggiori forze politiche in campo avevano dichiarato di saper come reperire svariati miliardi di risorse, chi per abbattere l'IMU, chi per rilanciare gli investimenti pubblici, chi per restituire l'IMU. Ora che si ritrovano insieme tutti nel medesimo governo, ora che appaiono miracolosamente d'accordo su alcune priorità, ad esempio bloccare l'aumento l'aumento dell'IVA, ora che non possono accusare l'avversario politico di intralciare l'azione di governo, scoprono improvvisamente di non sapere più come trovare quelle medesime risorse che in campagna elettorale consideravano a portata di mano. Con 400 miliardi di spesa pubblica extra pensionistica, 150 di evasione fiscale, i nostri governanti ci dicono candidamente di non saper proprio come fare a recuperarne 4, quanti sarebbero necessari per evitare l'aumento dell'IVA. E ancora, scrive Ricolfi, si potrebbe fare diverso? Detto in altre parole, a che serve un governo di grosse coalizioni con destra e sinistra unite se non a fare finalmente quelle scelte difficili che da 20 anni vengono rimandate? Non è questo che ha fatto la Germania quando era lei il malato d'Europa? Non è per non aver fatto quelle scelte che ora siamo noi il grande malato d'Europa, con la nostra attitudine a nascondere la testa sotto la sabbia, a rimandare le decisioni, a conservare il conservabile? Perché continuiamo a cercare le cause dei nostri mali all'infuori di noi, nella Merkel, nell'Europa, nella speculazione? E conclude amaramente Ricolfi: peccato, perché questa era un'occasione straordinaria, probabilmente irripetibile, quasi certamente l'ultima. Le risorse, già non si trovano 4 miliardi. Allora tenete le mani strette sul volante, perché arriva la notizia che vi avevo detto. Tenetele strettissime, appoggiate le tazzine del caffè bollente, appoggiate anche i cornetti se sono ripieni, perché ecco come si trovano le risorse nel decreto del fare. Parte delle risorse. Il Sole 24 Ore, pagina 6. Le coperture in parte del decreto del fare per 75 milioni nel 2014, come arriveranno? Con l'aumento dell'accisa della benzina e del gasolio da carburante. Eccola la soluzione, sempre a portata di mano, facile, comoda, sporca e subito. Coperture da un mini aumento delle accise su benzina e gasolio. È bellissimo, straordinario poi il titolo del Messaggero. Mini ritocco alla benzina, un ritocco, sembra una cosa anche che uno si... oh che bello, si mette lì e dice ma faccio un ritocco alla benzina, sembra una cosa gentile, educata, edulcorata, tenera, carina. È una tassa, questo è. Coperture da un mini aumento delle accise su benzina e gasolio. Leggete il Sole 24 Ore, Carmine Fotina, a pagina 6. Tenete ben strette, strettissime le mani sul volante e ascoltate le informazioni sul traffico. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. Sì, vabbè, abbiamo capito. Alle 7:47 minuti, allora, la politica è ancora concentrata sul Movimento 5 Stelle. Parla Adele Gambaro, espulsa dal Movimento, intervistata da Repubblica, Caterina Giusberti, dice sarà una questione di età, di sicurezza, io non sono più una ragazzina, non sopporto di essere comandata a bacchetta. Qualcosa non va, in 3 mesi siamo riusciti a far passare solo le polemiche interne, è colpa dell'informazione. Non è colpa dei giornali, non so perché si sia instaurato questo clima di terrore, ma mi ha messo a disagio. Nel Movimento ha vinto la censura, il clima è di terrore, non c'è futuro, così parla la senatrice espulsa. C'è da dire che però si conferma un po' il freno da parte di Beppe Grillo dopo la prima espulsione, dopo la seconda espulsione per la verità, dopo Mastrangeli e da parte della rete. Ora c'è stata questa telefonata con i cosiddetti dissidenti. Tra l'altro ieri Beppe Grillo, avete sentito anche il giornale radio, ha detto io non volevo l'accordo con Bersani, in realtà Bersani voleva usare il Movimento 5 Stelle per fare un governo di centrosinistra, non del Movimento 5 Stelle ma anche un governo suo con i nostri voti. L'Unità attacca, pagina 6, il Movimento 5 Stelle su un tema, quello dei portaborse, i collaboratori parlamentari, e cioè il titolo è questo: assistenti M5S preso per curriculum solo l'1%. Claudia Fusani dice: beh, quando chiedi ti dicono che bello, è stato un trionfo, 23.000 curricula, 23.000 persone ci hanno inviato il loro profilo interessate a collaborare con noi, ma alla domanda sì, ma quanti di questi poi sono stati scelti per curriculum? Risposta a mezza bocca: boh, 3 o 4, non di più. Insomma, l'Unità attacca, hanno chiesto i curricula di tutti, ma poi solamente l'1% degli attuali assistenti parlamentari sono stati scelti per curriculum. In realtà c'è da dire che un po' l'informazione effettivamente, come scrive il Fatto Quotidiano con Wanda Marra a pagina 7, occulta un po' quella che per esempio è l'iniziativa di ieri, che è una domanda che pongo anch'io. È luglio quasi, è luglio, cari ascoltatori, a luglio, sentite, sentite e udite bene, arriverà la prima tranche annuale ai partiti del finanziamento pubblico per le politiche 2013. Sono 91.354.399 euro. Li prenderanno tutti i partiti tranne il Movimento 5 Stelle, che come è notorio rinuncia a questa possibilità. A occhio e croce al PD spetterebbero circa 9.5 milioni, al PDL 7.5, ai 5 Stelle sulla carta 8.5, ma i 5 Stelle appunto non hanno fatto neanche richiesta per ottenerli. E il Movimento 5 Stelle ha detto rinuncino tutti i partiti, blocchiamo questa rata, sono 91 milioni di euro. 8 sarebbero quelli del Movimento 5 Stelle, quindi van tolti perché questi non verranno ritirati. Gli altri 83 circa milioni di euro verranno dati ai partiti? Li prenderete, cari partiti? Pare proprio di sì, perché è iniziato un iter in commissione per cercare di bloccare questa cosa, ma i partiti dicono è un po' troppo tardi. Bisogna fare discussioni più ampie, ci sono partiti che dicono ma io ho già messo a bilancio questa cifra, insomma solite dichiarazioni. La domanda ovviamente è retorica: se io vi dico, secondo voi cari italiani, questi 91 milioni verranno incassati da tutti i partiti tranne il Movimento 5 Stelle? La risposta chiaramente è sì, non pensate che ci siano altre possibilità di risposta. Qualche notizia di cronaca. C'è un dirigente, un produttore per la verità, e su tutti i giornali c'è questa notizia, che ha denunciato, pagato mazzette per lavorare in Rai. Questo lo trovate sulla Stampa. Guerra sui palinsesti Rai, la procura apre un'inchiesta, una società dice clientele e favori, chi non si adegua è fuori. È Pietro Di Lorenzo, fondatore della LDM Comunicazione SPA, una casa di produzione di fiction e intrattenimento, e dice, autore di 22 pagine finite alla procura di Roma che ora indaga: sono stato escluso ingiustamente dai contratti a meno che non pagassi delle tangenti. Una notizia di cronaca, attenzione, tra poco c'è anche il premio La Carta Costa, l'articolo più inutile del giorno. Ma prima una notizia di cronaca che è un emblema dell'Italia. Ieri centinaia, forse migliaia di turisti a Roma si sono presentati davanti al Colosseo, ma il Colosseo era chiuso per un'assemblea sindacale. Ma che immagine diamo dell'Italia, secondo voi, se un'assemblea sindacale chiude ai visitatori, gente che ha programmato il viaggio? Magari sapete come sono i giapponesi, dicono un giorno a Firenze, un giorno a Pisa, un giorno a Venezia, un giorno a Roma, e quel giorno dovevano essere a Roma e non hanno potuto vedere il Colosseo. Ma che immagine diamo dell'Italia per un'assemblea sindacale? Centinaia davanti al cancello, vanificato il viaggio a Roma, questo è il titolo del Corriere, pagina 25, una pagina, il Colosseo chiuso per sciopero, turisti abbandonati al sole. Vabbè, è il momento del premio per l'articolo più inutile del giorno, lo vince il Corriere oggi, Paola Pollo, siamo a pagina 31 del Corriere, mezza pagina, Carlà e i 200 alla festa dedicata a Liz Taylor, una festa organizzata per la straordinario nuovo gioiello Bulgari nel chiostro medievale a Portofino. Si è presentata anche Carlà Bruni Sarkozy, meravigliosa, altera, attenta, ha cambiato tre abiti, taglior bianco, poi un abito da cocktail blu e infine in lungo, tre cambi. Si è aggirata tra i tavoli, con lui anche Adrien Brody, mistero sulle altre persone, ma certo brillano décolleté, mani, lobby, le meraviglie di sete, chiffon, che lasciano tutti senza fiato. Il pranzo light, trofi al pesto, branzino, sorbetto e poi il dolce, e attacca la voce di Diana Ross, I will survive, applausi, balli e brilli, altro che sopravvivere. Corriere della Sera, La Carta Costa, come dico sempre, e il premio è a voi per oggi. E andiamo al giornale radio.